Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Verso fine di febbraio furono assegnate le parti. A me toccò interpretare Zorba, il gatto protagonista nella parte finale del libro, dove esorta la gabbianella a lanciarsi dal campanile e a volare, più in alto di tutti. Ciao, sono Alessandro, ho 13 anni e vivo a Gambolò. Faccio la terza media e l'anno prossimo vorrei fare il liceo scientifico. Alla fine ti sei sposato, alla fine lo hai fatto in chiesa, alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato, il televisore al plasma e il divano cammellato. È il tempo delle Molotov, tutti pazzi per Maria, ufficiali e gentiluomini della polizia non ti rincorrono più. Ai ai ai ai ai ai ai, è un mambo un po' precario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Turu turu turu turu turu. Mambo reazionario in diretta da Il Cammino di Santiago in taxi, l'ultima fatica di Bruno Rissas dal vivo qui a Voi Siete Qui. Buongiorno Dario. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Grazie innanzitutto per essere qui direttamente da Cosenza. Grazie a voi. Non proprio direttamente, dicevi che sei a Milano in questo periodo. Sì, sì, però diciamo direttamente perché è più eroico, dai, che sono venuto direttamente sì, qui a Milano da Cosenza, a piedi, in questo caso a piedi, non in taxi. Buongiorno a tutti, sono le 16:10 minuti precise qui a Radio 24, noi continuiamo a raccontare storie, qui a Voi Siete Qui, oggi la storia di una fortissima ansia da palcoscenico che ci racconta Alessandro, ma come spesso capita, il mercoledì facciamo dei live in diretta con qualcuno che ha voglia di venire a condividere la sua musica dal vivo qui con noi. Bruno Rissas, il vero nome di Brunori è Dario Brunori, sì, esatto. Giusto. Prima mi spiegavi però da dove arriva Bruno Rissas. Sì, nasce dall'azienda di famiglia che da anni si occupa di vendere mattoni, soprattutto laterizi. Mm. Quindi nasce da lì, dal fatto che siccome io invece ho fatto questa carriera, chiamiamola musicale, volevo in qualche modo mantenere la tradizione di famiglia. Spesso dico che le mie canzoni sono pesanti abbastanza da poter mantenere la tradizione dei mattoni di famiglia. Quindi... Tra l'altro però tu ne hai fatto parte di quella tradizione, perché mi dicevi che i tuoi fratelli adesso ci lavorano, ma tu dal 2007, tu hai avuto un percorso strano, no? Sì, molto. Insomma, ti laurei in economia e commercio a Siena. Sì, mi sono laureato in economia e commercio a Siena, poi... Con una tesi su? Con una tesi di diritto commerciale sui nomi a dominio internet, pensa a te. E da quella cosa, da quella grande esperienza, sono andato a lavorare nei parcheggi di Siena come cassiere. Poi purtroppo è morto il mio babbo, quindi sono dovuto scendere in Calabria ad occuparmi dell'azienda di famiglia, quindi ho fatto anche un po' l'imprenditore, per cui sento di essere nel luogo giusto. Sono a casa. E poi da quell'esperienza disastrosa come imprenditore, fortunatamente sono uscite fuori le canzoni del primo disco, che appunto era Bruno Rissas volume 1, e da lì ci ho creduto un po' di più. I miei fratelli si sono presi questa responsabilità di tenere viva l'azienda di famiglia, hanno anche un'altra azienda, io sono molto felice per loro, perché dovesse andarmi male mi riceveranno e mi riaccoglieranno ancora. C'è il paracadute. Esatto. Ricordiamo che insomma a me in generale non piace mai dare delle definizioni, però Dario, dalla tua una definizione alla musica che fai. Tu fai musica leggera. Di solito viene definita cantautorato, però a volte può essere anche una gabbia, perché in qualche modo è un'etichetta che poi ti costringe a fare sempre un certo tipo di cose. A me piace dire che appunto faccio musica leggera con un occhio al mio quotidiano e al quotidiano del mondo che ho intorno. Il 4 di febbraio è uscito Il Cammino di Santiago in Taxi, che è l'ultimo disco, ed è il quarto? Sì, è il quarto, contando una colonna sonora che ho fatto che si chiama È Nato Una Star. Perché? Il volume 3 però è il quarto. Perché Cammino di Santiago in Taxi? Ma perché è un aneddoto che mi è stato raccontato, quindi è una storia vera. Mi aveva colpito la storia di questa signora che aveva deciso di fare il cammino di Santiago in taxi. Siccome mi piace comunque che il titolo faccia sorridere innanzitutto e poi anche riflettere, perché da una parte descrive bene una mia attitudine, che è quella comunque di trattare anche tematiche importanti, l'attitudine soprattutto in questo disco, tematiche se vuoi esistenziali alte, ma anche con un'attitudine un po' frettolosa, e dall'altra perché mi sembra che il mondo intorno vada un po' nella direzione, no? Di guardare più di dire che si è fatto una cosa più che pensare alla sostanza, quindi in qualche modo ci vedevo me, ci vedevo il mondo intorno a me. E oggi dal cammino di Santiago in taxi Dario Brunore ci racconterà, ci suonerà alcuni brani, il primo l'abbiamo già sentito e più tardi ce ne suonerà altri due. Noi però raccontiamo la storia di Dario oggi, perdonatemi, di Dario, altro che di Dario, la storia di Alessandro, che parla di un'ansia fortissima da palcoscenico. 349-238-6666, lui è un ragazzino giovane e alle scuole elementari e come spesso capita tocca fare lo spettacolino. Un ricordo particolarmente bello delle scuole elementari è una sfida che ho dovuto affrontare contro la mia timidezza. La vita è piena di sfide, grosse e piccole, ma tutte sono molto impegnative per me. Eravamo a metà della quarta elementare, dovevamo decidere che cosa fare per la recita di fine anno. Una maestra propose il reading, la lettura di un libro dove ognuno interpreta leggendo il ruolo di un personaggio. La scelta della classe cadde su un libro che la maestra Annalisa ci stava leggendo già da qualche mese, La gabbianella e il gatto, di Luis Sepúlveda, che racconta la storia di una piccola gabbiana rimasta orfana e cresciuta da un gruppo di gatti e tra avventure e sfide in un piccolo porto le insegnano a volare. Verso fine di febbraio furono assegnate le parti. A me toccò interpretare Zorba, il gatto protagonista, nella parte finale del libro, dove esorta la gabbianella a lanciarsi dal campanile e a volare più in alto di tutti. Una parte infinitamente lunga, piena di parole complicate per un bambino di quarta elementare. Solo al pensiero di doverlo leggere davanti a 300 persone mi faceva stare male. Io in genere sono una persona comunque abbastanza timida e cioè, non solo sul palco, diciamo, mi viene quest'ansia anche a scuola, così quando devo parlare davanti a molte persone, quando devo fare cose fuori dal comune come anche questa, mi viene una certa ansia e soprattutto paura di sbagliare, di fare figure non troppo belle. Nelle prove tutto sommato andava bene, qualche errorino qua e là ma era normale. Dopo centinaia di prove arrivò la sera dello spettacolo. Eravamo nell'auditorium della scuola, sul palco vi erano dei bellissimi fondali, un faro, dei lampioni, delle case e un piccolo scaffale ricolmo di libri. Tutti fatti in cartone e decorati dalla maestra Annalisa, che disegna e dipinge veramente bene. I maschi indossavano un paio di jeans e una maglietta bianca, le femmine una gonna scura e una camicetta bianca. L'ansia era alle stelle, non mi reggevo più in piedi. Per evitare ulteriori agitazioni, chiesi ai miei genitori di mettersi in fondo, un po' nascosti, in modo che non li vedessi. Ovviamente si misero in seconda fila, centrali, davanti a me. Chiacchieravo con chi avevo vicino per cercare di tranquillizzarmi. Parlavamo di tutto, l'ultima partita dell'Inter, quando sarebbe uscito Avatar al cinema, o di che cosa avessimo mangiato il giorno prima, l'importante era distrarsi. Io ero tra gli ultimi, al 14° capitolo. Prima di me ho visto leggere senza errori più o meno tutti i miei compagni e l'idea di poter essere l'unico a sbagliare mi faceva agitare tantissimo. Dopo quasi un'ora e mezza arrivò il mio turno. Le gambe andavano per conto loro, come braccia e mani. Riuscivo a controllare solo la bocca. Non ho staccato gli occhi dal copione nemmeno un secondo. Finito di leggere, dopo l'applauso, sono tornato al mio posto come se niente fosse. Ci ho messo qualche minuto a realizzare che avevo letto bene, senza errori e senza andare troppo veloce. Dopo quello ho fatto quello in quinta elementare, sempre con la scuola, e poi gli spettacoli dove ho parlato, sì, forse in seconda media, sempre a leggere un racconto, come più o meno questo, davanti alla nostra scuola, che poi ha vinto, c'era un concorso, l'ho partecipato anche e ho vinto. Quando ho capito di avercela fatta a superare una sfida così grande per me, un po' come la gabbianella che spicca al volo, mi sono sentito realizzato e felice, contento di non avere fallito, e proprio per questo è stata una delle mie più belle esperienze alle scuole elementari. Da quel giorno, in collina, a messa, se il parroco mi chiede di leggere, accetto sempre. Mi tremano ancora le gambe e non riesco a controllare le mani, spesso sbaglio, ma riprendo e vado avanti. Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa, mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare a volare lassù. Dal vivo, voi siete qui, Bruno Rissà, sono le 16:21 minuti, sempre in diretta ovviamente qui a Radio 24. Dario, ti leggo subito un messaggio che arriva. Questa credo che sia una specie di marchio che quelli che fanno la musica come te non riusciranno mai a togliersi. Sì. A me sembra, ricorda molto Rino Gaetano, almeno dalla prima canzone che ho sentito, si riferiva al primo pezzo. È che Rino Gaetano ha fatto una roba diversissima probabilmente da quello che arrivava prima, e quindi di conseguenza tutti i... Il cantautorato italiano contemporaneo ricorda o riporta là, semplicemente perché si raccontano delle cose che sono vicine a sé. Però forse sto dicendo delle stupidaggini. No, no, diciamo che sicuramente è stato un personaggio che in qualche modo è stato di rottura per anche un certo modo di intendere quel cantautorato di quell'epoca, perché era molto ironico, era molto sarcastico, e in questo sicuramente mi sento vicino a lui. Ma quindi è un paragone che non ti dà fastidio, tutt'altro? No, no, penso anzi forse darebbe fastidio a lui, diciamo. Ovviamente mi fa piacere se le cose che faccio in qualche modo hanno una mia personalità, possono tirar fuori una mia personalità, ma è normale, penso anche così per chiunque, creare degli accostamenti, catalogare, è normale. Tu fate col gruppo un sacco di date che non è così facile fare in questo periodo. Leggevo qui adesso giusto al volo, a parte che sul sito brunorissas.it, che magari linkiamo al nostro profilo Facebook in modo che lo raggiungete, ci sono tutte le date. Però a parte che torni a Cosenza, perché il 14 febbraio sei a Cosenza. In realtà il 17, perché è stata spostata, è una presentazione in Feltrinelli. Sto facendo adesso un po' di presentazione di showcase e poi dal 6 marzo partiamo invece i concerti con la band. Vero, sì. Per cui sono il 6 marzo all'Alcatraz di Milano, wow! Ebbene sì. È grosso, sì. L'Alcatraz da riempire. Sì, e noi d'altronde ormai siamo ambiziosi, siamo pretenziosi, ma lo riempiremo anche con dei pullman che arriveranno in pellegrinaggio da tutta Italia. Sì, cercheremo di falsificare la cosa presentandolo come pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, invece poi li porteremo all'Alcatraz. E poi siete a Firenze, siete a Torino il 14 di marzo, a Genova, sì. Padova, Bologna, Verona, Cosenza, di nuovo Roma, Palermo. Dov'è lo zoccolo più duro di fan di Bruno? Ma devo dire la verità che la cosa è abbastanza omogenea. Ovviamente abbiamo, insomma, al sud c'è una percezione della cosa più vicina per territorialità, però devo dire che anche a Milano effettivamente, ma guarda, in generale sono molto felice del fatto che c'è un pubblico molto affettuoso un po' dappertutto. E che tipo di pubblico hai? Te lo chiedo perché leggendo e ascoltando i tuoi brani, ma anche in realtà prima di andare in onda, noi abbiamo chiacchierato per 10 minuti di serie, sì, televisive americane, di Breaking, sì, Bad, ed è una cosa che a 4 persone su 5 della nostra età, tra i 35 e i 40, sì, è tipo il secondo argomento dopo quanto paghi d'affitto, che serie americana stai guardando. Esatto. Ed effettivamente tu sei considerato un po' come un cantautore che racconta questi anni qua, tra i 30 e i 40. È così anche il tuo pubblico che ti segue? È vero questa cosa o è semplicemente una banalità? Ma guarda, io ovviamente mi voglio staccare da qualsiasi forma di legame generazionale, anche perché io mi sono sempre sentito più anziano della mia generazione e ancora avverto questa cosa, e per cui sto parlando di Breaking Bad e delle altre serie televisive solo perché, come dicevi tu, essendo un argomento molto trattato devi essere aggiornato per non apparire anziano. È un pubblico abbastanza trasversale, sicuramente l'età, ora ti dico, abbiamo controllato gli insight di Facebook, così faccio vedere che sono un professionista, e il mio target è 52% donne dai 24 ai 34 e 48% invece uomini dai 7 anni ai 64, quindi sugli uomini il target è molto, è più molto largo, più ampio. E ampio, però stiamo cercando adesso con una gaussiana di, non so, dico delle cose a se, caso, no, infatti, ho preso 18 in statistica. Non ti seguo più. Ah, no, okay. No, vabbè, d'altronde io pensavo di avere a che fare con dei professionisti della statistica, non è così. Perlomeno non in questo momento, non a quest'ora, non a quest'ora della programmazione. Fuori è pieno, guarda, fuori è pieno, infatti. Dopo chiamiamo Barisoni e fate due chiacchiere, esatto, sull'economia e sui domini, no? Su cosa si è laureato. È un pubblico che ti posso dire sicuramente la percezione che ho è che c'è un grande affetto. In questo senso sono molto felice, perché non suono semplicemente di fronte a spettatori che ascoltano in maniera indifferente. Mi sembra che ci sia proprio una percezione di valore umano. Ha a che fare più con l'umanità che non con la generazione, non con l'età, insomma. Ma sì, sicuramente, ti ripeto, ti racconto delle cose che vuoi o non vuoi, parlando della mia vita, magari qualcuno ci si riconosce, e di solito ci si riconoscono persone che hanno la mia età più o meno. Hai mai avuto, rimando al tema di oggi, che è quello di Alessandro, una forma di ansia da palcoscenico, la prima volta che sei salito su un palco, la prima volta che hai avuto tante persone davanti? Sì, vabbè, questa è una cosa che secondo me non passa mai. Comunque è una, per quanto uno possa razionalizzare, per quanto possa essere abituato, penso che quel tipo di tensione ci sia sempre, anche perché, voglio dire, quale essere umano non è in tensione quando c'ha gli occhi puntati addosso? Quindi è una cosa che l'avrò anche per dire quando salirò sul palco all'Alcatraz, anche se poi ho la fortuna di reagire molto bene a questo tipo di tensione, per cui tiro fuori, anzi, sul palco delle cose che nella vita quotidiana non vivrò. Cioè è una tensione agonistica quasi. 349-238-6666, siamo in diretta con Bruno Rissas. Abbiamo sentito due pezzi dal suo ultimo album e stiamo per sentire l'ultimo, ahimè, di oggi, che si intitola Le quattro volte. Si può nascere un'altra volta, puoi rinascere ancora un'altra volta se ti va. Grazie a Bruno Rissas, che ha suonato dal vivo qui a Live di Voi Siete Qui. Grazie mille, Dario. Grazie a voi. Potete vederlo a Milano il 6 di marzo, a Firenze andate sul suo sito e scoprite tutte le date del suo tour. Comprate invece il suo disco, che è Il Cammino di Santiago, in taxi. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Fabio Cantadori, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Qualcuno ci chiedeva, ahimè, fuori tempo massimo, un mini omaggio di Brunori a Roberto Fricantoni, che ci ha lasciato oggi. Non abbiamo più tempo, io però voglio ricordare una frase che gli sentì dire una volta, che diceva: si dice che quando si raggiunge il fondo si può solo risalire. Io una volta mi sono ritrovato a scavare. Grazie a tutti, grazie soprattutto ad Alessandro. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Thomas, sono da Arcade e la storia di domani è la mia e parla del più bel concerto della mia vita. Questa è la mia storia e io sono qui.